Europa 24. Un saluto e un buongiorno da Gigi Donelli. L'Unione Europea di Radiodiffusione ha chiesto ufficialmente alla Grecia di revocare la sua decisione di chiudere la radio-televisione pubblica ERT. Il presidente dell'UEUR, Jean-Paul Philippot, il direttore generale del TREN, ha inviato una lettera al premier greco Samaras, invitandolo ad utilizzare tutti i suoi poteri per annullare immediatamente questa decisione. Intanto, tra i molti commenti, vi facciamo sentire quello di Nikolaos Xuntis, parlamentare greco del Partito della Sinistra Unita, che dice... Xuntis dice è una decisione profondamente antidemocratica, un vero shock per la Grecia, è stata chiesta dalla Troica e dal nostro governo e dai loro colleghi ed è stata assunta da un governo guidato da tre partiti. Questi tre partiti, di cui evidentemente Xuntis non fa parte, hanno una seria responsabilità in questa decisione. Abbiamo cercato di fermarla, la decisione, e naturalmente l'intero popolo greco è contro questa misura. Ecco, su questo punto replica la Commissione, evidentemente tirata in ballo, dice: non è stata la Commissione europea a chiedere la chiusura della TV pubblica, una decisione, dice invece Bruxelles, presa autonomamente, che va vista nel contesto di modernizzazione dell'economia greca per rendere efficiente il settore pubblico. E intanto ancora sulla Grecia, e non sono buone notizie, la Grecia è infatti il primo paese sviluppato ad essere tagliato a mercato emergente dall'MSC, la società che confeziona indici azionari seguiti dagli investitori di tutto il mondo, lo riporta l'agenzia Bloomberg. La Grecia, spiega MSC, non è riuscita a soddisfare i requisiti relativi ai prestiti in titolo, allo short selling, alla trasferibilità. Dal 2007, ricorda la nota, la borsa di Atene ha perso circa l'83% del suo valore. E ora parliamo di diritto alla casa. I dati sono gravi, quelli che riguardano l'Europa. Pensate, lo sentiamo tra un momento nel servizio, sono molti quelli che non hanno materialmente un tetto nello spazio europeo, ma cresce quasi alla soglia del 20% il numero degli europei che fa fatica a gestire i conti, ad avere una abitazione degna di questo nome. Il servizio. La crisi ha acuito un problema che in Europa scontava numeri già considerevoli, il nodo delle persone senza dimora. Non si è ridimensionato, così come non sono migliorate le condizioni di chi in Europa vive in povertà. Nel 2010, proclamato anno europeo della lotta alla povertà, il 6% dei cittadini europei risultava senza tetto e il 18% viveva in case sovraffollate o in pessime condizioni igieniche. E con la crisi, molti altri si sono visti sfrattare, ingrossando il numero di chi non ha un tetto sulla testa. Con queste premesse, l'europarlamentare verde francese Karima Delli ha messo a punto un report europeo sulla crisi di abitazioni in Europa. Io sono soddisfatta perché sono contenuti grandi passi avanti in questo senso. Abbiamo riaffermato che i diritti a dimore accessibili devono essere garantiti dagli stati membri europei. Oggi non sono garantiti e c'è ancora molta gente sulle strade, persone che vivono nelle loro auto e così via. Non è normale che gli stati membri dell'Unione Europea non prendano in considerazione questa come una priorità. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora parliamo di siderurgia, assicurare la sopravvivenza del settore consentendo l'accesso a finanziamenti europei e determinate forme di aiuti di Stato. Questa in sintesi. Secondo il vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani, l'obiettivo del piano d'azione per la siderurgia varato dall'esecutivo comunitario. Sentiamo Tajani. Le cifre sono ancora da individuare per quanto riguarda la parte dell'orizzonte 2020, perché come sapete c'è un dibattito in corso, la proposta della Commissione erano 80 miliardi di euro per il pacchetto orizzonte 2020 e all'interno di questo ci potrebbero essere cifre da decine se non di centinaia di milioni per alcuni comparti industriali come può essere quelli dell'acciaio, però bisogna ancora vedere come si concluderà l'accordo tra Commissione Europea, Consiglio e Parlamento, mentre ci sono ancora mi pare 280 milioni del fondo